Guidandoci da un successo sia di pubblico che critica, in studio nuovamente William Piana, Silvia Albertazzi, coadiuvati dal notaio che si nota poco ma c'è, Stefano Calanchi, di ritorno dopo la presentazione delle poesie di Silvia Mio padre somigliava a Dustin Hoffman. Con grande gioia accolgo Silvia Albertazzi qua di fronte a me. Buongiorno Silvia! Buongiorno Willy, ma che presentazione! È una presentazione che è stata veramente la nostra Tolone, la prima di tanti successi che andremo a cogliere. Sai che Napoleone fu chiamato in sostituzione di un ufficiale quando ancora era un ragazzino appena uscito dall'accademia per reprimere dei movimenti a Tolone e fece una battaglia incredibilmente strategica e dissero: questa sarà la prima di una lunga serie, appunto si dice la Tolone in partenza per quando si hanno dei percorsi assolutamente positivi. Ce lo auguriamo, questo... Certo, ma no, è stata molto molto apprezzata dal pubblico che c'era. Ho avuto dei feedback molto positivi, si sono molto divertiti tutti, per cui abbiamo motivo di portare anche in frequenza il nostro entusiasmo. Però io inizierei ringraziando la libreria Ubic che ha messo a disposizione gli spazi per questo incontro. Certamente. E aggiungo anche che in collaborazione con il Voltiamo Pagina dà possibilità di ritiro per quanto riguarda i premi che andremo a presentare. Allora Silvia, anche quest'oggi avremo modo attraverso i nostri quiz di portare buona lettura alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei 103.1. È in premio il libro che vedo qui di fronte a me. Ok, è ufficiale, non è un incarto a sorpresa, ma un cofanetto Sperlari non si incarta mai, lo sapete, no? Almeno quelli con qualche anno in più si ricordano il famoso spot, ma in questo caso non è uno spot, è realtà. E diamo il via quindi alla playlist letteraria, ricordando che avremo anche playlist musicale. A te la parola, Silvia. Vedi bene che non è un cofanetto Sperlari, ma sulla copertina c'è un cono gelato. C'è un gelato, per cui... si parla di dolci. No, infatti non si parla di dolci. È un libro di ricette, c'è il tiramisù, la tenerina, no. Tutt'altro. Dunque, il libro si intitola I miei due papà, è di Eric Mukendi e edizioni E.O. Allora, quando me l'hanno consigliato, mi hanno anche detto: guarda però che è un libro leggerino, come dire, beh, insomma, vedi te poi se parlarne o no, perché è un... La parola esatta che è stata usata è leggerino. E infatti è un libro leggerino dal punto di vista del peso, senza dubbio, perché è meno di 150 pagine. Dicevo grammi, è meno di 150 no, grammi. No, come grammi non so, non sarei neanche un netto. Ascolta, intanto ne approfitto per dare il buongiorno a Manuela della libreria Ubic. Buongiorno. Che a suo volto ricambia i nostri saluti. Grazie Manuela. Tra l'altro il libro che porto è un consiglio tuo. Procediamo Silvia. Però ti dicevo, quando io quindi ho cominciato a leggerlo piuttosto così, non convintissima. Invece sì, è un libro leggerino, però in questa leggerezza sono trattati tutta una serie di temi che sono tutt'altro che leggeri e che sono trattati in maniera veramente particolare, ma alla fine ti fanno anche riflettere, in quanto il tema di base è quello della emigrazione e della non accettazione dei migranti nella Francia contemporanea. Questa è la Francia, ma insomma. E soprattutto qui abbiamo la storia di un ragazzo, ed è tutto raccontato dall'occhio di un ragazzino di 15 anni. Questo dà la leggerezza al tutto. Okay. Questo ragazzino che è stato mandato dalla Repubblica del Congo, dove c'erano delle sommosse, dove c'è una situazione molto tragica, è stato mandato in Francia dallo zio, che era diventato francese avendo sposato una signora bianca, e conseguentemente affinge che sia suo figlio, e in questo modo riesce a fare un ricongiungimento familiare. E il bambino quindi arriva lì a 7 anni, si abitua alla realtà francese, ancorché la realtà di banlieue, non il centro di Parigi. Periferico. Extra periferico, direi. Frequenta una scuola dove in massima parte i bambini sono di colore, però acquisisce attraverso anche la televisione, i media, eccetera, la mentalità più occidentale, diciamo, e il modo di vivere dell'Occidente. Le cose gli cominciano a crollare quando improvvisamente, senza essere annunciato, arriva il padre. Arriva il padre vero dal Congo, no, neanche dal Congo, passando per la Svizzera. E questo padre chiaramente vorrebbe imporsi come padre, quindi con tutta la severità, le cinghiate anche. Le botte. E anche il tipo di moralità diverso che c'è nel suo paese, però al tempo stesso non può farlo fino in fondo, perché il fratello non ha mai detto a sua moglie che il bambino non è suo. Ah. Quindi non si azzarda a dirle adesso: guarda, che in realtà il bimbo, il ragazzo, è figlio di quel signore che è arrivato. Tra l'altro, tra la moglie e il vero padre c'è un po' d'attrito, insomma, perché questo è troppo congolese, è troppo lontano dalla... Che colpa, imperdonabile. Eh sì, però c'ha tutto un modo di fare. Tra l'altro, oltretutto, c'è anche il problema ulteriore: lui è arrivato da clandestino, è arrivato da Saint-Papier, non ha i documenti, quindi per vivere deve fare lo scaricatore, il magazziniere in un supermarket con i documenti di un altro. Ah, quindi se lo trovano... È un disastro. E lui a casa sua era un preside di scuola, un insegnante di filosofia, quindi non era neanche proprio un ignorantone. Contestualmente, proprio nel momento in cui arriva sto padre, il ragazzino si trova durante una gita scolastica al Museo d'Orsay a Parigi, dove peraltro non era mai stato, perché lui a Parigi città ci va ben poco, si trova a fare conoscenza con una sua coetanea che invece frequenta una scuola bene di Parigi, che abita nel sesto arrondissement, che da casa vede la Tour Eiffel e che sembra innamorarsi di lui. Per cui c'è questa piccola storia d'amore che nasce, molto naturalmente osteggiata, cioè che lui, il bambino, il ragazzo, la nasconde a casa perché sa che sarebbe osteggiata, quindi deve sempre inventare delle bugie sempre più macroscopiche per quando vuole incontrare questa ragazza, mentre lei lo invita alle feste di questi ragazzotti bene e in qualche modo sembra che lo introduca. Ne è molto fiera di questa storia d'amore. Sì, lei sembra esserne fiera, anzi è lei che lo va a cercare. E vabbè, e poi non aggiungo altro, no. Diciamo, perché chiaramente qui si intrecciano le due vicende della storia, cioè quella del padre e del problema di dire a quella che lui chiama mamma, anche se sa benissimo che non è sua mamma, tra l'altro è una signora bianca, che lui non è in effetti il figlio di suo marito. E il problema di questo rapporto, che poi avrà tutta una serie di risvolti che sono tipici di una relazione tra due persone che non hanno, tutto sommato, non hanno nulla in comune, vengono da due ambienti proprio alle due estremità. Completamente diversi. Ma questo vale anche per i giovani, se ci pensi, anche per i ragazzi che viene portato alle feste di un certo. C'è questo parallelismo, tra l'altro, almeno a me è venuto. Infatti, che poi sì. Tra l'altro lui deve andare a questa festa, allora la ragazza gli dice: beh, ma portati il tuo amico, perché così non ti senti meno solo, perché saranno persone diverse in qualche modo. E questo amico è un buzzurrone, ma soprattutto è un attaccabrighe tremendo, per cui ti puoi immaginare a un certo punto cosa potrebbe succedere a questa festa. Certo. Titolo è Casa Editrice E.O., Sì, Casa Editrice E.O., il titolo I miei due papà, e l'autore è Eric Mukandi, che è un'opera prima, e da quello che si legge sulla quarta di copertina l'autore è lui stesso un giovane congolese, cioè che è venuto via anche lui come suo protagonista dal Congo per via delle rivolte, della situazione tremenda che c'era, però lui è venuto via con tutta la famiglia all'età di 7 anni, e adesso insegna letteratura francese, insegna francese in una scuola a Rouen. Potrebbe sta in Normandia. Essere anche una sceneggiatura per un film. Oh sì, sì, sarebbe anche un film. Alle 8:13, volevi aggiungere, Silvia? No, dicevo che sarebbe anche un film molto gradevole. E nonostante i 150 grammi di peso, nonostante la lettera, no, anzi, sarebbe finalmente un film di una misura normale, non esatto. Delle 3 ore come li fanno esatto. Adesso tutti. Ma abbiamo Piero Di Domenico che dopo, che troverete in rassegna stampa, e in quel lasso di tempo di cambio studio a modo di portare alcuni titoli molto interessanti che vanno ben oltre i 150 grammi. Ma detto questo, con lo stacco musicale in partenza di playlist, la coppia Albertazzi Calanchi ha proposto. Allora, la playlist stavolta è tutta mia, perché il signor Calanchi non trovava niente di adatto. Allora, io ho preso 2 pezzi che parlano di padri e 2 pezzi in cui dei padri si rivolgono ai figli. Quindi ho giocato su questo due papà del titolo. Il primo è Mike Di Marco con My Old Man. My Old Man ovviamente è il mio vecchio, è mio padre. Thank you. decisamente albertazzato, questo è un brano che è molto nelle corde di Silvia, questa scrittura raffinata ma anche di una fruizione easy listening di classe. Grazie Silvia e grazie Stefano per la collaborazione in playlist, mi date una grande mano soprattutto per quanto riguarda l'andare a letto presto, di solito alla sera mi metto nel salone dove sommerso da vinili e CD cerco sempre delle novità da mettere nella selezione musicale mattutina, al martedì sera posso andare a letto una mezz'oretta prima e so certo che la grande qualità musicale, almeno anche per il mio gusto, seppur diverso, arriva in frequenza come colonna sonora per il Voltiamo Pagina, ricordando che anche i dischi portati vinile o CD da Silvia e da Stefano sono in supporto assolutamente originale. Prima ho parlato di musica liquida, no, neanche nel Voltiamo Pagina per il Breakfast Club vi è questa realtà che poi di realtà insomma si chiama musica liquida, un motivo ci sarà. Anche in questo caso in playlist abbiamo brano su supporto originale e ne sono ben contento. Detto questo, ricordo che domani ci sarà la conferenza stampa, presentazione dell'edizione 2024 del Bologna Jazz Festival. Ne siamo ben orgogliosi di esserne media partner e in Jazz Live avrete la prima puntata dedicata alla rassegna felsinea nella giornata appunto di venerdì. Di vigilia di weekend dalle 11.30 alle 12.30. Ricordo anche che il libro appena presentato da Silvia è in palio. Ecco, non sì. Non c'è un sostituto, seppur di grandissima qualità. In questo caso, invece, avrete la possibilità attraverso il quiz di arricchire in questo modo la vostra biblioteca. Silvia, a te è piaciuto da quello che sì, ho? Sì, mi è piaciuto, mi sono divertita leggendolo. Ho anche, come dicevo prima, ho anche però riflettuto su questa situazione di questo. Come lui racconta, assumendo l'occhio di un ragazzino, di un adolescente, una situazione che è piuttosto invece tosta, una situazione anche soprattutto di rifiuto da parte dei buoni borghesi bianchi francesi dell'immigrazione e di questi immigrati di colore. Tu prima fuori onda mi chiedevi ma è nero? Certo che è nero, è nerissimo, viene dal Congo, è nerissimo ebano. E appunto già lui in qualche modo si sente diverso rispetto ad altri compagni che sono soltanto marroncini, diciamo, ecco, tanto per capirci. E lui, come lui lo esprime, è molto particolare perché ad esempio fin dall'inizio lui dice non devo tradurre tanto le parole quanto i pensieri e le intenzioni, ma il fatto è che le parole di un nero nella testa di un bianco, praticamente si rivolge a chi legge, e le parole di un bianco nella testa di un nero non hanno sempre lo stesso senso. A volte ci sono incomprensioni. Io parlo il nero e parlo il bianco, non in due lingue diverse, ma nello stesso francese che parlano tutti. Parlo il bianco e il nero in francese, o perlomeno posso parlare francese o congolese in francese. Il congolese però non è una lingua. Lo dico per spiegare, non per me. Io lo so che il congolese non è una lingua e so anche ciò che intendo dire, nel senso che in francese, il francese usato da un congolese, secondo me, è congolese. Lo spiego per le persone con cui vivo, quelle che per origine e cultura non hanno legami con il Congo, eccetera, eccetera. Allora, per curiosità, io sono andata online a vedere se trovavo ulteriori notizie sull'autore e ho trovato la sua faccia. E mi è piaciuta molto perché è un ragazzo giovane, non so quando, qui non mi mette la data di nascita, ma penso che sarà sulla trentina, non lo so, con i suoi bei capelli rasta, nero appunto come l'ebano, però con una faccia molto simpatica e con i lunghi capelli rasta, e mi immagino questo che va a insegnare, no? Certo. E lui, ci sono delle pagine molto, molto, direi anche toste, sulle scuole francesi e su come i ragazzi, soprattutto in queste scuole di banlieue, maltrattino proprio letteralmente i malcapitati insegnanti per lo più bianchi, comunque non importa, il colore qui in questo caso non importa, come veramente li prendano in giro, li maltrattano. C'è un ragazzo che continua a dire ma perché devo al suo professore, ma perché io devo risponderti, perché devo avere devo rendere conto a te, ma soprattutto piegarmi alla tua autorità. Sei un disgraziato poverino che guadagna 1200 euro al mese, che non ce la fa neanche a tirare avanti alla fine del mese. Cosa pretendi da me? Questo è il messaggio che ha dato la società a questo ragazzo, che le persone si misurano con i soldi, hai capito? La tristezza, infatti, è questa. La pagina tosta nel contenuto è il primo pensiero che mi è arrivato. Il valore di questo professore o di questo lavoratore viene valutato a seconda dello stipendio e di quanto è riuscito ad accumulare, non certo per la qualità e per il messaggio che riesce a trasmettere, secondo questo ragazzo, vittima dei costanti messaggi che arrivano nel contemporaneo, purtroppo. Un altro libro meraviglioso, quando parlavi di linguaggio mi è venuto a mente James di Percival Everett, per quanto riguarda il dialogo tra bianchi e neri. Beh, lì siamo su un livello molto più elevato, ti ripeto. E poi è una situazione diversa. Certo, certo. Ecco, un'altra cosa, per capire la leggerezza di questo libro, ti leggo quello che hanno messo proprio sul risvolto di copertina. Hanno preso una frase dal libro, poi mi dici a che cosa ti fa venire in mente. Penso, tu sei un po' più giovane di me, ma dovrebbe venire un po' molto più giovane di me. E adesso, ma dovrebbe venirti in mente comunque anche a me. A merenda due brioche al cioccolato sono meglio di una, e anche i gelati, uno alla vaniglia e uno al cioccolato, per non dover scegliere. Insomma, due è meglio di uno, ok, ma avere due papà non è una cosa che avrei chiesto al buon Dio se avessi potuto domandargli qualcosa due volte. E due gusti è meglio di uno, questo viene in mente a proposito. Two gustis make a one. Two gustis make a one. Infatti. Abbiamo fatto anche la pubblicità occulta e subliminale. Abbiamo un altro brano in stacco musicale a breve e abbiamo anche il quiz che tu hai elaborato. Vuoi che lo faccia adesso? Che dici? Lo facciamo, ascoltiamo musica, andiamo in pubblicità? Facciamo il quiz, così dopo loro ascoltano la musica e ci pensano sopra. Esatto, e si va in pubblicità. Meditano! Anche perché il secondo brano invece, a differenza il primo, proprio per me era bellissimo perché era la leggerezza del libro. Bello, questo sì. Invece è un brano molto tosto, è un brano molto bellissimo, ma di quelli che fanno pensare più impegnativo. Sì. Niente, il quiz invece non è impegnativo per niente. Adesso a mio parere è molto molto facile. Il libro si intitola I miei due papà. Io invece faccio un quiz su due figli, cioè voglio sapere chi è il padre di questi due figli. Allora, sono due musicisti, che lavorano entrambi nel mondo della musica, due cantanti. Uno si chiama Julian, l'altro si chiama Sean. Io voglio sapere chi è il loro padre. Oh, questo lo so anch'io, Dai, ho detto che non era impegnativo, è stata molto molto buona. Detto questo, andiamo con lo stacco musicale. Mi pare Enzo Iannacci, La sera che aperti mio padre. E dopo la pubblicità vi aspettiamo. Ripetiamo il quiz al 333-180-9494. Due figli, vogliamo sapere il nome di chi ha portato paternità a questi due ragazzi, che rispondono a nome Julian e Sean. A voi la risposta, 333-180-9494. C'era la finestra a guardare. Guardare per vederlo andare, andare neanche tanto lontano, non muovere neanche una mano. La sera che partì mio padre, non c'erano canzoni da ascoltare, perché la radio continuo a parlare e mio padre andava per non tornar più. La sera che partì soldato gli dissero di non sparare, era solo roba di leva militare, bastava dire soltanto alto là. La sera che e arrivò sua madre e lo vide bianco senza più respirare, aveva in mano il telegramma, medaglia d'oro per la sera, la sera che me ne andrò anch'io, io spero solo che sia Natale, perché a Natale stanno tutti in casa a mangiare, a bere, ascoltarsi parlare. La sera che io me ne andrò via diranno che dovevo andare, diranno che non va. I went out walking the other day. The wind hung wet around my neck. My head it rung with screams and groans for the night I spent amongst her bones. Passed beside the mission house where that mad old buzzard, the reverend, shrieked and flapped about life after you're dead. I thought about my friend Michelle, how they rolled him in linoleum and they shot him in the neck. Well, Papa won't leave you, Henry. A Papa won't leave you, boy. A Papa won't leave you, Henry. A Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard and the many fall by the side. Papa won't leave you, Henry, and there ain't no need to cry. And I went on down the road. Came upon a little house, a little house upon a hill. I entered through and the curtain hissed. into the house with its blood-red boughs. A wet-lipped women with greasy fists crawled the ceilings and the walls, and they filled me full of drink, and they led me round the rooms, naked and cold and grinning, until everything went black and I came down spinning. I woke so drunk and full of rage that I could hardly speak. A fag in a whalebone corset, dreaming his dick across my cheek, and it's into the shame and it's into the guilt. Rientriamo con quell'allegrone di Nick Cave, che in playlist viene riportato da Silvia, grande ammiratrice di Nick Cave. No, dico, faccio questa autoironia perché arriva il buongiorno da Luigi, grazie per l'emozione di Annacci. Adesso però bisogna trovare la carica per il resto della giornata, Luigi. Beh, allora ti dico che dalle 10.30 alle 12.30 c'è il Rock Live di Nevio. Non sempre le playlist di Silvia al Voltiamo Pagina sono allegrone, però hanno dei contenuti assolutamente molto importanti e anche un gusto non indifferente. A proposito di gusto non indifferente, ti volevo dire, Silvia, che ieri mi ha scritto Giorgio Franzaroli da San Giovanni in Persiceto, che tu conosci bene. Ciao William, hanno appena citato e segnalato Silvia Albertazzi su Rai 3, passato presente John Lennon, magari lei lo sa, ma in caso che no, dice, volevo portare questa notizia. Ah, ringrazio. Sì, l'ho ringraziato tantissimo ovviamente per questa segnalazione, che un pochettino così mi ha fatto immenso piacere, però insomma, quando è che quando io parlo sembra che arrivi quello che si usa i superlativi alla carica di entusiasmo? Silvia Albertazzi è un talento letterario veramente importante, ma non lo dico perché è mia amica, non lo dico perché conduce con me il Voltiamo Pagina, lo dico perché veramente ha il dono del saper scrivere, da me invidiatissimo, tra l'altro che non so neanche scrivere il mio nome e cognome. Però quando dico questo non lo dico perché mi piace far bella figura riflessa o perché devo riempire uno spazio radiofonico. Silvia ha talento, ok? Grazie, dopo che ti ho imbarazzato. Beh, per bene. Ok, per fortuna che nessuno mi può vedere perché sono veramente molto imbarazzata. Ringrazio Giorgio per questa segnalazione. Ieri me l'aveva segnalato anche Stefano tramite un amico, perché Stefano chiaramente non lo sapeva, cioè, e poi era in macchina, quindi non l'avrebbe mai visto. E dopo l'ho guardato su Rai Play, è stata una cosa molto carina da parte di questo. C'era questo programma su John Lennon di Paolo Mieli, che sembrava un prete. Cioè, ma lui ha questo modo. Appunto. E che sembrava che stesse parlando di qualcuno che non conosceva affatto, per cui faceva delle domande anche un po' oziose, secondo me. E l'ospite principale era Ferdinando Fasce, che è uno studioso di Genova, che ha scritto un bellissimo, devo dire, libro sui Beatles, edito da Einaudi, e col quale sono anche stata in corrispondenza quando scrivevo il libro su Lennon. E alla fine appunto gli hanno chiesto tre libri fondamentali per leggere il personaggio Lennon, e vabbè, Mieli ovviamente, e ha fatto benissimo, ha citato prima di tutto quello di Fasce, che ripeto è un gran bel libro. Poi hanno citato Fasce ha citato il libro di John Wiener, che anche io ho usato per il mio libro e che è un gran bel libro anche quello. E poi quello che mi ha fatto piacere è stato che ha detto che citava il mio libro perché finora dei romanzi su Lennon non ne sono stati scritti, specialmente dei bei romanzi, però il mio saggio è scritto come un romanzo, e quindi lo citava perché è scritto come un romanzo. Quel cretino di William che ha avuto la fortuna di leggerlo per primo di tutti, perché chiaramente ho delle aderenze, per così dire, e subito ho avuto sensazione di tutto ciò. Bene, mi fa piacere, e noi continuiamo con il Voltiamo Pagina proclamando vincitore Jarno da Calderara. Tante volte è arrivato secondo, questa volta sei vincitore per la risposta esatta, che a tale proposito colleghiamo al tuo lavoro, perché è John Lennon facile, ma la velocità di Arno è stata vincente. Ringraziamo tanto Cristina, ascoltatrice del Voltiamo Pagina, che era tra il pubblico nella presentazione alla UBIC. Grazie di cuore Cristina, spero che il mio dono sia stato apprezzato, quel libro di John Benville, ma di cui ne abbiamo già parlato. Arrivano altre risposte esatte e uno con precisazione da Paola. Buongiorno, sono i figli di John Lennon e Yoko Ono. Veramente solo Sean è figlio di Yoko. La madre di Giulia non ricordo come si chiama. La madre di Giulia si chiama Cynthia Powell. Comunque non era richiesto, no, il nome, certo, delle madri, certo, ma solo del padre. Ringraziamo un nuovo ascoltatore che è arrivato medaglia di bronzo sul podio, ma in terza posizione. Però resta in ascolto, Patrick, perché potresti vincere il lavoro che tra poco presenterò. In due parole, John Lennon, risposta esatta. Grazie, Patrick. Una scena del film ha come una visione. Davanti ai suoi occhi sfila una processione composta, tra gli altri, da Oscar Wilde, Tchaikovsky, Leonardo da Vinci e Federico II di Prussia, su ognuno dei quali pende una spada di Damocle. Il sottotitolo recita: nessuna delle migliaia di persone che acclamano questi brillanti artisti sospetta che ognuno di loro ha certe inclinazioni punite con la messa al bando dalla società. Parte questo lavoro al capitolo di cui ho dato inizio lettura, a pagina 147, capitolo 10, del Crimine del buon nazista di Samir Machado de Machado, autore che nasce nel 1981 a Porto Alegre in Brasile. Io non conoscevo, tra l'altro io non sono molto ferrato sulla letteratura sudamericana, men che meno su quella dal subcontinente brasiliano. Apprezzo tantissimo, come ben sapete, conosco la musica. Per quanto riguarda la letteratura mi sfugge un po', per cui grazie Emanuela di Libreria Ubic che mi ha proposto questo libro, Il crimine del buon nazista, edizioni Sellerio, Samir Machado de Machado. Come vi ho detto, un lavoro che ha determinati aspetti che sono legati innanzitutto a quello che è il giallo, se vogliamo, ma trattato ovviamente in maniera molto azzeccata, molto particolare, molto anche ironica, soprattutto ironica direi, e soprattutto anche con talento letterario e di esposizione immediata, ma anche molto incisiva. Siamo nel 1933, il volo del Graf Zeppelin proveniente dalla Germania viaggia in direzione di Rio de Janeiro. I suoi passeggeri sono molto ricchi, commercianti, medici, ereditieri, e tutto all'interno del dirigibile è pensato ovviamente per una clientela molto raffinata, abituata al meglio. Se non fosse per un misterioso omicidio che avviene nel cuore della notte. A bordo però c'è un funzionario della Kriminalpolizei berlinese, Bruno Brückner, uno dei protagonisti. Ovviamente, vista la data e il grado, il ruolo del protagonista, è membro del partito nazista in viaggio per una vacanza, che prende subito in mano le indagini. Comincia a interrogare i passeggeri, di cui ne cito alcuni. Perché questi passeggeri? Perché la sera precedente hanno cenato con la vittima. Karl Vögler, un medico nazista sostenitore dell'eugenetica, William Hay, un inglese un po' dandy e provocatorio, e infine una misteriosa baronessa, la baronessa von Hattem. Intanto che viene perquisita la cabina della vittima, si scopre che la vittima aveva due passaporti, uno con nome tedesco e l'altro con nome ebraico, e c'è il sospetto che sia una spia comunista, e ancora peggio agli occhi dei passeggeri coinvolti nelle indagini. All'interno dei suoi effetti personali vengono trovate alcune riviste erotiche molto diffuse negli ambienti underground omosessuali della Berlino degli anni 30, nudi artistici, articoli che raccontano le campagne di Manius Hirschfeld tra i fondatori del primo movimento gay e i cabaret della vita come l'Eldorado, tutto un mondo chiaramente che in quegli anni rappresentava un presidio di coraggio e libertà contro gli orrori del nazismo. E per quello che ho letto quelle poche righe che hanno portato grandi artisti, grandi autori e come dice il protagonista in questa visione, ecco, tutti li acclamano, ma se sapessero il loro orientamento sarebbe allo stesso modo portata l'importanza di questi valorosi e grandi artisti? È un intreccio per quanto riguarda il lavoro di Samir Machado de Machado, che vi porterà anche a trovare un'ironia pungente, altri tempi nella scrittura se vogliamo, ma tutti i tempi come coinvolgimento. L'ho letto, diciamo, in una sera e mezza se vogliamo, ma sicuramente è stata una lettura più che piacevole. Grazie Emanuela. È un intreccio da giallo di altri tempi, questo ha aumentato il mio fascino nell'approcciarmi a questa scrittura. Viene citata Agatha Christie e viene citato anche una denuncia con un taglio ironico e tagliente nel raccontare l'ascesa del Terzo Reich e la persecuzione nazista contro gli omosessuali. Sotto il calibrato rebus, che tra l'altro si snoda nella trama di De Machado, la denuncia contro queste idee rabbiose e violente del fanatismo, e non solo quello di ieri, anche quello di oggi. Per avere il libro che vi ho appena presentato, che tra l'altro consiglio anch'io, oltre che ringraziare Emanuela di Libreria Ubik, porterò un quiz a sua volta facile, chiaramente col Brasile legato però alla mia filmografia. Tra i preferiti durante il viaggio per trovare la grande stella nascente nel mondo del calcio, o Ronzo si ritrova l'allenatore nel pallone interpretato da Lino Banfi su un campetto di periferia e scoprirà questo grandissimo talento dal nome filosofico, fra l'altro Aristoteles. Anch'io vi faccio un quiz molto molto facile, vi ho citato solamente il nome, a voi il cognome di questo mister, di questo allenatore improvvisato ma alla fine vincente dell'allenatore nel pallone portato da Lino Banfi, o Ronzo puntini puntini puntini, e a voi la risposta per il crimine del buon nazista. A tra poco. Jarno, però tu hai già vinto, quindi magari sto aspettando la risposta da un altro ascoltatore o ascoltatrice del Voltiamo Pagina. L'allenatore nel pallone, arriva subito però la risposta nell'immediato, vediamo chi ha risposto per prima o per primo. Attenzione, vedo che c'è Francesco, non so però se... Beh, vediamo, un attimo solo. Is if I can't be there. Francesco, tu sei idolo tutti i tempi, dice Oronzo Canà, ma io ho già vinto la settimana scorsa, è stato è vero. Molto sportivo e sarai premiato per questo. La risposta è Canà, buona giornata da Veronica. Uè, Veronica, grazie per la partecipazione, vediamo un pochettino se abbiamo altre risposte, attenzione. questa che è arrivata. Sto guardando l'ora di arrivo, perché vorrei portare a premio tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, però faccio del mio meglio, ma non ho una disponibilità economica che vi possa dare soddisfazione, almeno nella presentazione. Spero di poter invece dare notizie importanti per quanto riguarda le uscite editoriali. La vincitrice per adesso è Veronica. Grazie Veronica, sarai contattata a breve. Lord, protect my child. Volevo dirti un sacco di cose, Silvia, poi mi sono tutte passate di mente. Si dice erano bugie. Ma non allora erano. Diciamo che questo è Bob Dylan. Ok, tanto sì, molto riconoscibile, ma giusto. Però dalla sua raccolta di bootleg, quindi è un pezzo abbastanza raro. Dal titolo? Lord Protect My Child, Signore proteggi mio figlio. Proteggi mio figlio. Noi dobbiamo passare la linea all'Edipeo enciclopedico, dopodiché ci sarà Liberi Dentro, a seguire la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e Piero Di Domenico, il grande rock live con Nevio Bencivenni dalle 10.30 alle 12.30. Domani appuntamento in mostra sui 103.1. Silvia, nulla da dichiarare durante questi saluti? No, vabbè, oggi è la mia giornata di... De che? Sempre la tua giornata. No, de che? Che mi sto vergognando come una matta, già per immagino, quello che hai detto prima. Ben allora per altre vado avanti. Mi hai detto cosa succede questa settimana. L'unica cosa che faccio, domenica vado a Porto Venere a ritirare il premio per le mie poesie. Brava, meritato. Si vede che anche in quel del Golfo dei Poeti, vai nel Golfo dei Poeti, Silvia, non è una casualità, hai capito? Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata, ci attende il video di presentazione dei due lavori che abbiamo appena portato in frequenza e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con il Voltiamo Pagina di Radio Città Fujiko. Da un'emozionata Silvia e da un affaticato William un caloroso abbraccio e l'augurio di un buon ascolto sui 103.1. Ciao a tutte e ciao a tutti. Ciao a tutte e a tutti. Ciao, buona giornata.